Da sempre i cristiani hanno come loro divinità tre persone sussistenti in una unica natura divina, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito. Di queste tre persone si è detto tanto, e tante sono le eresie in merito. Per quello che riguarda Gesù, per esempio, vi è l'eresia dell'ebionismo, che vede in Gesù il figlio naturale di Giuseppe e Maria. Vi è l'eresia del docetismo, che sostiene che Cristo possieda solo la natura divina. Vi è l'eresia dell'arianesimo, che vede Gesù una creatura di rango superiore alle altre, ma generata e inferiore al Padre. Vi è l'eresia del monofisismo, che afferma che in Cristo esiste una sola natura, cioè quella divina. In merito al Padre, oggi i testimoni della Torre di Guardia sostengono l'eresia che il Padre è Geova, mentre la divinità dell'Antico Testamento, cioè Yahweh, è Cristo. In merito alla persona dello Spirito Santo vi sono opinioni molto confuse, perché l'ostacolo più grande sta nel ritenere lo Spirito Santo una persona uguale al Padre e al Figlio. Infatti, molti di coloro che nei loro scritti fanno riferimento allo Spirito di Dio danno l'impressione di concepirlo più come un influsso che si diffonde nella Chiesa, oppure come un modo di agire divino, o una influenza, o una forza impersonale di Dio, che non come una persona. Inoltre, i termini usati per parlarne denotano spesso una certa imprecisione di pensiero e di opinione teologica. La ragione di tanta confusione sta nel fatto che, da un lato, utilizziamo la parola persona per indicare chi ha una natura umana, chi possiede un corpo materiale e un'anima immateriale. Dall'altro lato parliamo dello spirito dei nostri tempi, o di uno spirito collegiale, modi di dire questi che danno il significato neutrale alla parola spirito. Proprio per questo, la persona dello Spirito Santo è la più sconosciuta e dimenticata. Perciò è più che opportuno prendere in esame l'opera della persona dello Spirito Santo, sia per onorarla, sia per identificarne l'operato. Vedremo che la persona dello Spirito, quello Santo 1, convince gli uomini di peccato, 2 rigenera l'uomo, 3 viene ad abitare nel credente, 4 lo introduce nella Chiesa, 5 produce i frutti nella vita del credente, 6 conduce chi ha posto fede in Cristo, 7 fa comprendere la parola di Dio, 8 viene in aiuto alla debolezza del credente, 9 dà la capacità di amare, 10 testimonia di Cristo. Ignorare quest'opera è dunque un grave danno. 1. La persona dello Spirito Santo convince l'uomo di peccato. In ogni cultura, per forza di cose, la divinità è lontana e irraggiungibile nella sua totalità. Se fosse vicina e comprensibile, non sarebbe più una divinità e, come tale, non sarebbe degna di essere adorata né cercata. Nessuno di noi apprezza un comune sasso o un filo d'erba perché ce ne sono a migliaia. Perciò noi apprezziamo l'oro e i diamanti solo per il fatto che sono rari e unici. Così è della divinità alla quale tutti noi ci rivolgiamo, sia che siamo cristiani o musulmani. Se fosse comune come un qualsiasi mortale, non avremmo nessuna ragione di rendere un culto. Non si onora un atleta sotto la media, ma quello che raggiunge prestazioni uniche. Dunque, se la divinità è così lontana e irraggiungibile, com'è possibile avvicinarsi ad essa? Se la divinità è totalmente altro, come può l'uomo pensare solo di avere un contatto con essa? Se poi la divinità è perfetta, santa, com'è possibile avere un rapporto di comunione con essa? A questi interrogativi il cristianesimo risponde che l'iniziativa di un rapporto con la divinità non procede dall'uomo, ma dalla divinità stessa. Così si è espresso il salmista: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Salmo 27,8. E dunque Dio che cerca l'uomo e lo spinge a interessarsi di lui. E fa questo mediante la persona dello Spirito Santo. Gesù lo dichiarò espressamente. Io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Giovanni 16.7.11. Così, la prima opera che compie la persona dello Spirito Santo consiste nel condurre l'uomo a Dio convincendolo di peccato, ossia producendo in lui la persuasione di essere una creatura lontana da Dio, di non essere degna di avvicinarsi a Lui perché Dio è troppo santo, e di essere per questo degno di ogni condanna. Con questa premessa, non ci sono persone che hanno il privilegio di essere chiamate da Dio, come non ci sono persone che sono state predestinate alla perdizione eterna. Che poi ci siano delle persone più disposte verso Dio. Questo dipende dall'uomo e non da una differenza di chiamata. L'uomo nella sua libertà può rifiutare l'invito di Dio. L'Eterno disse al popolo di Israele: «Questo teriaca sili yavima. Hanno occhi per vedere ma non vedono, orecchi per udire ma non odono, perché sono una casa ribelle». Ezechiele 12.12. Non esiste ribellione se non vi è libertà di scelta. 2. La persona dello Spirito Santo rigenera l'uomo. Se dopo essere stata convinta di peccato la persona accetta la testimonianza della persona dello Spirito Santo, si pente, confessa i suoi peccati e accetta il perdono già offerto in Cristo, realizza un'esperienza spirituale mediante la quale non sarà mai più lo stesso, cioè realizzerà una nuova nascita mediante il battesimo della persona dello Spirito Santo. Giovanni Battista aveva il compito di annunciare l'arrivo di Gesù e nel suo messaggio profetico disse alla folla: «Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e con il fuoco». Matteo 3.11. Molto si è detto del battesimo nello Spirito, quello santo, e, purtroppo, non in modo corretto. Dato che per molti lo Spirito Santo è una forza attiva di Dio, leggono e traducono il testo greco affermando che il battesimo è con lo Spirito Santo e non nello Spirito Santo. In questo modo dimostrano di avere l'idea che lo Spirito Santo sia come un liquido che viene versato sulla persona battezzandola, cioè immergendola, con lo Spirito di Dio. La Scrittura invece si riferisce al battesimo nello Spirito Santo, intendendo così che il credente viene immerso dentro la persona dello Spirito. La differenza è enorme. Su di un uomo posso versare tanta acqua da sommergerlo, ma comunque sia rimane sempre la stessa, mentre se questo entra spiritualmente nella persona dello Spirito di Dio, subisce una trasformazione spirituale. In effetti Gesù ha parlato di nuova nascita e se l'espressione va presa come deve essere alla lettera, significa che il credente mediante il battesimo nella persona dello Spirito Santo entra in un mondo tutto nuovo, il mondo dello spirituale. Come con la nascita umana si entra nel mondo degli umani, così mediante il battesimo nello Spirito si entra nel regno di Dio. Purtroppo, anche in questo caso il cattolicesimo ha sostituito l'opera dello Spirito di Dio con un rito, quello battesimale, affermando che esso possa far diventare figli di Dio coloro che lo ricevono. Ma, come disse Gesù, ciò che è nato dalla carne è carne, e nulla e nessun rito può cambiarlo, mentre ciò che è nato dallo Spirito è Spirito, e nulla e nessuno può cambiare una nuova nascita. La certezza di possedere la salvezza non risiede in ciò che l'uomo fa, ma in ciò che egli è diventato. Come un figlio naturale rimane e rimarrà per sempre figlio, così un figlio di Dio rimane e rimarrà per sempre figlio di Dio. Non c'è né purgatorio né inferno che lo aspetti. 3. La persona dello Spirito Santo viene ad abitare nel credente. Che la divinità abiti in una creatura è una notizia veramente straordinaria. Prima dell'incarnazione del Figlio di Dio, della sua morte e della sua resurrezione, lo Spirito di Dio aveva il compito di condurre il credente, di illuminarlo, di renderlo forte, ma non aveva ancora il compito di battezzarlo e produrre in lui una nuova nascita. Dopo la sua resurrezione, Cristo Gesù ha mandato il suo Spirito affinché entrasse nell'uomo e vi dimorasse per sempre. Questa verità viene espressa molte volte nelle lettere dell'Apostolo Paolo. Efesini 1:13, In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. 1 Corinti 3:16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Romani 8:11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito, che abita in voi. Etelmi, è un fatale errore abituarsi alla notizia di eventi speciali perché non se ne comprende il valore, ma occorre ricordare che ricevere lo Spirito di Dio è l'adempimento di una promessa fatta millenni di anni prima dall'Eterno mediante i profeti, perciò ora viviamo nell'era della promessa dello Spirito. Il Tempio che era stato costruito per l'Eterno nell'Antico Testamento e, se vogliamo, il luogo, questo particolare, non deve sfuggire, perché se lo Spirito di Dio, chiamato anche Spirito di Cristo, è una persona santa, una persona di adorazione, di lode, di riconoscenza, tutto ciò che nel credente non corrisponde alla natura della persona dello Spirito, deve essere ritenuto sbagliato. Rendere qualsiasi culto o venerazione ad altri che non sia Cristo, ogni cattiveria e ingiustizia, ogni tipo di vendetta, rancori, maldicenze, ingratitudine, ogni forma di mancanza di sottomissione ai genitori e ad ogni autorità come il marito e le autorità civili, ogni espressione sessuale illecita come l'omosessualità, lo stupro e l'adulterio, l'invidia e la superbia, sono da ritenere espressioni che provengono unicamente dalla natura umana corrotta. Come sta scritto, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3.9. Questa espressione di Giovanni vuole intendere che il peccato non può procedere dallo Spirito Santo, perciò chi ha realizzato la nuova nascita non può praticare il peccato come stile di vita. Lo Spirito, quello santo che dimora in lui, compie un'azione frenante. 4. La persona dello Spirito Santo introduce il credente nella Chiesa. In questo mondo vi sono solo due regni, il regno di Satana e quello di Dio in Cristo. Infatti nel Vangelo di Giovanni per 3 volte Gesù definisce Satana il principe di questo mondo. Mentre in questo mondo vi è un altro mondo, al quale l'uomo non appartiene per natura, al quale egli non fa caso e non conosce. In una conversazione con un capo dei giudei, Nicodemo, Gesù parlò di nuova nascita. E dato che Nicodemo non capiva, Gesù replicò con queste parole: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3.35. Dunque, in questo mondo vi è il regno di Dio, visibile e accessibile soltanto a chi ha realizzato la nuova nascita. Il regno di Satana e il regno di Dio sono due realtà coesistenti, ma che non si confondono né si fondono. Qual è dov, è e com è questo regno di Dio nascosto alla maggioranza degli esseri umani? In senso generale, il regno di Dio è qualsiasi luogo dove egli può dettare le sue leggi e dove egli può comandare o regnare. Il regno di Dio, o regno di Cristo, è possibile trovarlo anche nel cuore di una persona, quando questa ha assoggettata la sua volontà a quella di Cristo. Ma il regno di Dio si vede soprattutto nella Chiesa che Gesù ha fondato. La Chiesa di Cristo non è composta, come sostiene il cattolicesimo romano, di persone che hanno ricevuto un rito battesimale, ma è la somma di tutti i credenti che hanno posto fede in Cristo, quale unico Salvatore e Signore della loro vita. Per far parte della Chiesa il credente non deve fare nulla, non deve ricevere nessun sacramento, non deve sottoscrivere una dichiarazione, né mettere una firma in qualche registro, ma è sufficiente una fede salvifica in Cristo, e automaticamente la persona dello Spirito Santo lo introduce nella Chiesa di Cristo. Questo ribalta il concetto della religione cattolica romana, secondo il quale è la Chiesa che salva, ma non è che si debba far parte della Chiesa per essere salvati, bensì è colui che è già salvato mediante una nuova nascita per lo Spirito di Dio che entra a far parte della Chiesa. Come può una persona sapere di far parte della Chiesa di Cristo? Quante persone credono fermamente a qualcosa che non sia vero? Col tempo comprendo sempre più quanto sia difficile cambiare le proprie opinioni. Quando penso a come sia difficile cambiare le proprie convinzioni, mi viene in mente una barzelletta che vale la pena ricordare. Due uomini che avevano abitato sempre in città vanno due giorni in campagna. Lungo il loro tragitto trovano un animale e lo portano a casa. Verso sera uno di questi fa un'osservazione. «Hai visto che bella gallina?» Il secondo replica. «Secondo me non è una gallina, ma un gallo». «Ma cosa dici?» risponde prontamente il primo. «Osserva bene. Io sono convinto che è proprio una gallina. E di questo passo discutono animatamente». Ad un certo punto l'uomo che sosteneva che l'animale fosse un gallo lancia una sfida. «Facciamo una cosa. Se domattina sentiamo fare chicchiricchi a un gallo, diversamente hai ragione tu. E una gallina?» «Bene», dice il primo. Arriva il mattino e tutto ad un tratto i due uomini sentono echeggiare un sonoro chicchiricchi. «Hai visto che è un gallo?» replica subito l'uomo che sosteneva che l'animale non fosse una gallina. «Guarda», risponde con un tono deciso quello che sosteneva che l'animale fosse una gallina. «Se non avessi udito con le mie orecchie non avrei mai creduto che una gallina facesse chicchiricchi». Questa barzelletta non ha solo lo scopo di far ridere, ma esprime molto bene quanto sia drammaticamente difficile cambiare opinione. Così coloro che sono convinti di far parte della Chiesa di Cristo, anche davanti a evidenti prove, molto difficilmente accettano di sbagliarsi. Parte di questi sono i cattolici e molti protestanti. Purtroppo scopriranno di essersi illusi quando saranno delusi in cielo davanti a Gesù che dirà loro «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno». Com'è possibile allora essere sicuri di appartenere alla Chiesa di Cristo? La risposta è una sola. Se si è ricevuto lo Spirito Santo mediante una nuova nascita. Ma come posso sapere di avere lo Spirito Santo se questo non si vede e non si tocca? È possibile avere una certezza in merito a qualcosa di non visibile e non palpabile? Già di per sé quello che vediamo può essere messo in discussione, perché un bastone immerso metà nell'acqua per un effetto ottico, noi lo vediamo come spezzato, mentre invece non lo è. Perciò se non posso fidarmi ciecamente di quello che vedo, come posso essere sicuro di avere lo Spirito di Dio quando non lo vedo neppure? La risposta ci è, ma occorre fare un breve percorso ragionando obiettivamente. Noi viviamo per fede. Anche chi nega questa realtà non può esimersi dal riconoscere che ad ogni istante facciamo gesti e poniamo fiducia in quello che non vediamo. Quando prendiamo delle medicine noi non sappiamo cosa contengono, eppure non facciamo indagini sul loro contenuto, non andiamo nella fabbrica dove vengono preparate, ma con un atto di fede le ingeriamo. Sembra un gesto da poco, ma noi affidiamo totalmente la nostra vita ad una pillola, perché basterebbe che questa fosse avvelenata e in pochi minuti non saremmo più fra i mortali. Questo esempio si riferisce ai gesti che facciamo per fede, ma vi sono anche atti di fiducia in ciò che non vediamo. Se osserviamo che una vigna è potata, noi non abbiamo visto né il proprietario né chi l'ha potata. Ma sappiamo per certo che la vigna appartiene a qualcuno e che il proprietario o un suo operaio l'ha potata. Una vigna non si può potare da sola, così è pure di un cane ammaestrato a portare il giornale a casa. Sappiamo per certo che nessun cane di sua propria volontà prende un giornale e lo porta al padrone. Perciò, anche se non abbiamo visto il padrone e l'addestramento, sappiamo per certo che il cane è stato ammaestrato. Il nostro atto di fede in ciò che non abbiamo visto produce in noi una convinzione che può essere sradicata solo da prove contrarie. Le convinzioni sono buone e a volte indispensabili, Ma non dobbiamo fare delle nostre convinzioni una certezza andante al di là della realtà, altrimenti diventeremmo come l'uomo della barzelletta che di fronte all'evidente fatto che l'animale aveva fatto chicchiricchi, continuava ad essere convinto che fosse una gallina. Preso atto di com'è la realtà della nostra vita, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento per sapere se abbiamo lo Spirito Santo e se facciamo parte della Chiesa di Cristo. Lo Spirito di Dio non si vede, come non abbiamo visto chi ha potato la vigna, ma lo Spirito Santo produce dei risultati come la potatura la vigna. Così Dio non ci chiede di avere fede in ciò che non vediamo, ma in quello che vediamo. Io posso essere sicuro di avere lo Spirito di Dio e di appartenere alla Chiesa di Cristo quando nella mia vita ci sono i risultati prodotti dallo Spirito Santo. La mia fede non sarà posta nella convinzione di avere lo Spirito di Cristo, ma soprattutto nel fatto che ho un nuovo amore verso i figli di Dio. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Giovanni 3.14. L'amore per i fratelli non è la filantropia, cioè fare del bene al prossimo, ma amare coloro che sono nati di nuovo ed hanno ricevuto lo Spirito Santo. 5. La persona dello Spirito Santo produce i frutti nella vita del credente. Proprio perché chi ha la persona dello Spirito Santo non può rimanere quello di prima, inevitabilmente la sua vita cambia. E se non cambia, deve dubitare fortemente di essere nato di nuovo e di far parte della Chiesa. Noi dobbiamo credere più ai risultati che alle nostre convinzioni. In questa prospettiva alcune opinioni in merito a Dio vengono esattamente ribaltate. Spesso ci lamentiamo e accusiamo Dio convinti che ci chieda di credere a qualcosa che non vediamo, o di fidarci di quello che non è razionale, mentre in verità Dio ci chiede di credere a quello che vediamo, e cioè ai frutti dello Spirito Santo. Quali sono i frutti dello Spirito Santo? L'Apostolo Paolo ha scritto qualcosa che risponde esattamente al nostro interrogativo, e se leggendo la sua lista non scorgiamo solo un elenco di cose belle e brutte, ma l'evidenza di ciò che non si vede, di una natura corrotta e di una natura divina, non avremo più dubbi. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5.1-6.22. Il contrasto di questi due elenchi è evidente. Da una parte vi è la nostra inclinazione al male ricevuta al momento della nascita, e dall'altra vi sono azioni che non appartengono per nulla all'uomo. Perciò esprimere il vero amore, gioire nel dolore, cercare la pace con il proprio nemico, avere gentilezza, bontà, autocontrollo, non sono per nulla i risultati naturali dell'uomo, ma la prova che si possiede lo Spirito, quello santo. Questa è una ragione per la quale Dio dona il suo Spirito a chi pone fede in Cristo. Perché nessuno può osservare i comandamenti di Cristo a meno che Dio non gli dia la capacità di osservarli, e questa capacità viene solo da Cristo stesso mediante la persona dello Spirito. È vero che è anche possibile imitare la vita cristiana, ma non lo è viverla. È vero che alcuni si infiltrano tra i figli di Dio senza aver realizzato la nuova nascita, ma come sta scritto, i peccatori non reggeranno nell'assemblea dei giusti. Senza lo Spirito Santo non vi sono frutti duraturi. 6. La persona dello Spirito Santo conduce il credente nella vita cristiana. Se si dovesse dare una definizione molto breve della vita cristiana, si dovrebbe dire che è una vita nuova. In effetti, per quanto l'uomo sia religioso, per quanto immagini come possa essere la vita cristiana, la via di Dio è totalmente sconosciuta e impensabile. L'Eterno stesso lo ha detto. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55.9. Prendendo sul serio questa analisi del Dio Trino, ci sarebbe da angosciarsi nel pensare che chi pone fede in Cristo deve camminare su di un sentiero totalmente sconosciuto. Eppure, nel suo amore, Dio non solo ha dato lo Spirito Santo a chi crede in Cristo quale unico Dio, unico Salvatore e unico Signore, ma la persona dello Spirito ha il compito di guidare il credente a compiere la volontà di Dio. Questa verità è più volte descritta nella parola di Dio, nella quale leggiamo che gli scrittori biblici scrissero guidati dallo Spirito di Dio, 2 Pietro 2.21, che Maria la madre di Gesù, Elisabetta sua parente, Zaccaria il padre di Giovanni il Battista, Simeone, Stefano il primo martire, furono guidati dallo Spirito Santo. Non solo. Leggiamo che Gesù stesso fu battezzato e condotto dallo Spirito di Dio. Perciò il credente non solo deve vedere un dono inestimabile nella persona dello Spirito, ma anche una buona guida per camminare in modo degno di Cristo. Anzi, si può affermare che chi non è guidato dallo Spirito di Dio deve dubitare fortemente dell'efficacia della sua fede. Gesù, definendola, ha sintetizzato la vita cristiana con queste parole: «Lo Spirito soffia dove vuole, e tu ne odi la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito». Giovanni 3.8. Non a caso, nel libro chiamato Atti degli Apostoli, dove l'Evangelista Luca descrive alcuni episodi dei primi 40 anni della Chiesa di Cristo, più volte mette enfasi che lo Spirito parlava, guidava, conduceva, consolava, dava gioia, impediva e riempiva i credenti. Vi sono credenti che nel cammino in questo mondo sono del continuo allerta sulle tentazioni e sui peccati da non commettere, e se anche questo atteggiamento è da considerare buono, non è certamente il cammino che è prescritto per un cristiano. La volontà di Dio è che il credente cammini condotto dalla persona dello Spirito Santo, sottomesso alla sua volontà. Che significa poi essere riempiti di Spirito Santo, pre Dio conseguenza a non camminare secondo i propri istinti naturali corrotti. Non è tanto il male che il credente deve evitare, anche se ovviamente non deve compierlo, ma piuttosto l'essere sottomesso allo Spirito di Dio. 7. La persona dello Spirito Santo fa comprendere la parola di Dio. La parola di Dio, cioè la Bibbia, è il libro più tradotto di tutta la letteratura esistente al mondo. La Bibbia viene predicata ovunque in mille modi e in mille maniere. Viene letta, meditata, studiata, esaminata. Vi sono scuole dove non si fa altro che studiare la Bibbia sotto ogni angolatura. Si studiano le lingue originali dell'ebraico, dell'aramaico e del greco. Si scrivono migliaia e migliaia di libri per commentare ciò che il testo biblico dice. Nascono di tanto in tanto nuove religioni che dicono di basarsi sulla Bibbia, al punto che chi è alla ricerca della verità è ancora più confuso di quanto lo era prima. Infatti, quando parlo della mia fede in Cristo, la prima reazione di un onesto ascoltatore è quella di ammettere che non sa più a chi credere, dato che ogni religione dice di essere la vera. Eppure, in questo galattico universo che ha per centro la Bibbia, vi è una ragione per la quale la Bibbia non è compresa. Chi la legge non ha lo Spirito di Dio. La stessa parola di Dio lo dice chiaramente tramite l'Apostolo Paolo nel passaggio dove egli si riferisce alla possibilità di comprendere le Scritture. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. 1 Corinzi 2.1012. Se è lo Spirito Santo a far comprendere le cose di Dio, perché stupirsi di chi legge la Bibbia e non la comprende? Per quanto mi riguarda, sono stupito se chi non ha lo Spirito Santo comprende la parola di Dio. Perciò è normale e naturale che chi legge la Bibbia, se non ha lo Spirito di Dio e non è condotto dallo Spirito Santo, non comprenda le Scritture. A noi uomini non resta che accettare non solo la nostra ignoranza in merito al regno di Cristo, ma soprattutto l'incapacità di poter capire i misteri di Dio, perché senza questo presupposto non vi sono speranze di essere istruiti dal Dio Trino mediante lo Spirito Santo, vi è speranza di imparare solo se si è coscienti e convinti di non sapere. Ma come può essere istruito da Dio l'uomo incredulo o credente? Meno perché non vi è differenza, meno se questo pensa già di avere una soluzione o una risposta dentro di sé. Il male dell'uomo moderno non sta nella sua conoscenza, ma nel non credere di essere troppo ignorante per le cose di Dio. 8. La persona dello Spirito Santo viene in aiuto alla debolezza umana. A una persona obiettiva non occorre molto ad ammettere la propria debolezza per sapere affrontare adeguatamente tutte le vicissitudini della vita. Anche se ci prepariamo o siamo preparati per certe evenienze, spesso siamo colpiti all'improvviso nei punti più impensati. Quando penso a questa verità, la mia mente automaticamente risale all'episodio del mio fidanzamento decisamente anomalo e che ha determinato in seguito il mio matrimonio. Il desiderio di avere una ragazza e di sposarmi è sempre stato presente nel mio cuore. Così, fin dalla giovane età, preparavo le parole che avrei detto al momento opportuno alla mia ragazza. Arrivato all'età di 24 anni, ormai avevo imparato a memoria il discorso. Avrei detto delle parole romantiche in una situazione romantica. Se era possibile, avrei avuto come cornice un bel parco fiorito in primavera e, guardando con occhi languidi, la mia ragazza l'avrei indotta a dirmi di sì. Tutto era a posto e preparato. Invece, il mio fidanzamento è avvenuto in un ufficio in modo affrettato. È nato nel corso di una discussione animata, nella quale ho dovuto perfino chiedere, con gli occhi abbassati, scusa per le mie avance. La ragazza, dopo circa un mese, mi ha dato una risposta positiva alla mia richiesta di fidanzamento. Ma in seguito si è rimangiata le parole e poi si è di nuovo ravveduta, perché costretta. Perché racconto questo? Perché da quel giorno, e benedico Dio per questo, dato che credo fermamente che ogni cosa coopera al bene per chi ama Cristo, ho avuto quella ferma certezza della mia debolezza e incapacità di essere preparato nei confronti della vita. Dal giorno del mio fidanzamento ho compreso la mia totale debolezza nel gestire le situazioni della mia vita. Verità questa, che viene rimarcata ogni giorno sempre di più. Se questa è la realtà della mia vita terrena, come posso essere sicuro di rimanere saldo nella fede in un regno a me sconosciuto? Chi mi garantisce che ho le capacità per compiere la volontà di Cristo? Dio ha provveduto a questo dandoci lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo scrisse «Velan cab opicia». Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Romani 8.26. L'Apostolo Paolo si sta riferendo alla preghiera, ma sarebbe un grosso errore pensare alla preghiera solo come a quel momento nel quale si è in ginocchio o in una riunione di preghiera. La preghiera è comunione con Dio. Perciò, se noi non siamo capaci per natura di rimanere in comunione con Dio, lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza e ci conduce con dei gemiti inesprimibili. 9. La persona dello Spirito Santo dà al credente la capacità di amare. Psicologi, educatori, professori sono d'accordo che la più grande necessità in questo mondo non sia il benessere, ma l'amore. Noi tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. Abbiamo bisogno dei risultati dell'amore, quale la pace, il perdono, la sopportazione, l'altruismo. Se il bisogno più grande in questo mondo è l'amore, cosa dire per quello che riguarda il regno di Dio? Cos? È un discepolo di Cristo senza amore. Come può essere creduto l'Evangelo se chi lo predica non ha amore? Come può avere amore una creatura come l'uomo che è incline solo all'odio, alla vendetta e alla ripicca? Come può un credente in Cristo avere amore dato che è uguale a tutti gli altri uomini? Dio ha provveduto anche a questo. Nel fare un figlio di Dio di colui ha posto fede in Cristo, il Dio Trino ha provveduto di dare al credente non una qualsiasi natura spirituale, ma la stessa natura di Dio, cioè l'amore. Questa è la ragione per la quale in questo mondo non vi è amore, perché solo il Dio Trino è amore. Perciò, chi non riceve lo Spirito di Dio non riceve l'amore. E per questo che il mondo ha bisogno disperatamente dei cristiani, perché solo i cristiani posseggono l'amore di Dio. E vero che non tutti coloro che hanno posto fede in Cristo amano o sanno amare, ma questo è meno, per dirla con un'espressione di oggi, meno un difetto di funzionamento, ma non di fabbrica. Se io do un martello ad un bambino per piantare un chiodo e lui non è capace, il problema non consiste nel martello, ma nel bambino. Così è del credente. Dio ha equipaggiato i suoi figli dell'amore necessario affinché questo sia espresso nella vita. Ma se qualcuno non lo manifesta adeguatamente, l'errore sta nel credente e non nella qualità dell'amore che Dio ha infuso in lui. Così leggiamo nella parola di Dio: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5.5. L'apostolo Paolo scriveva a delle persone nate di nuovo, perciò si deve ribadire che il vero amore non è sparso nei cuori di tutti gli uomini, ma solo in coloro che hanno posto fede in Cristo quale unico padrone della loro vita. L'amore che possiede l'umanità è come il lievito, pasta andata male, e sempre pasta, ma è una sostanza alterata al punto da diventare acidula. Solo l'amore che procede da Dio è puro e buono. 10. La persona dello Spirito Santo testimonia di Cristo. Onestamente, spesso siamo confusi quando qualcuno sostiene di parlare da parte di Dio meno e perciò guidato dallo Spirito Santo meno e poi constatiamo che sta dicendo cose assurde. Come valutare la voce dello Spirito di Dio? Come distinguere la voce dello Spirito Santo da quelle contraffatte? Un modo ci è ed è prendere in esame il contenuto di tali affermazioni. Gesù disse che lo Spirito che avrebbe mandato avrebbe testimoniato di Lui. Quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni 15.26. Dunque, la prima caratteristica per individuare quando qualcuno parla sospinto dallo Spirito di Dio è di considerare se testimonia di Cristo, se conduce le anime a Cristo, se induce le persone ad avere come unico fondamento della sua fede la persona di Cristo. Cosa dire allora della religione cattolica romana, che pur parlando di Cristo induce e spesso costringe le persone a porre fede nella dottrina del cattolicesimo romano? Testimoniavo di Cristo ad una donna, e lei tutta contenta mi rispose con orgoglio che credeva nella religione cattolica romana, ed io per farla riflettere le chiesi quale fosse il secondo comandamento. Subito mi rispose: non nominare il nome di Dio in vano. Le feci presente che questo non era il secondo comandamento, ma bensì il terzo. Dire che rimase sbigottita e dire poco, perciò la invitai a leggere a casa il capitolo 20 del libro dell'Esodo nella sua Bibbia con l'imprimatur. Se ne andò tutta sconvolta, ma cosa sarà successo quando a casa avrà letto che il secondo comandamento di Dio è quello di non fare immagini e di non rivolgere preghiere davanti a loro? E che il cattolicesimo romano, avendo tolto un comandamento, ha diviso l'ultimo in due per fare quadrare il numero dei 10 comandamenti? Avrà il coraggio di rifiutare una religione che non testimonia di Cristo ma della sua dottrina? Può una religione sostenere di essere guidata dallo Spirito Santo quando Gesù Cristo è solo un accessorio e non il centro del suo messaggio? Se Cristo Gesù non salva una volta per sempre, se non perdona i peccati e non dà la certezza della salvezza, se Gesù non diventa il personale salvatore, com'è possibile definire una religione cristiana? Dobbiamo prendere sul serio che lo Spirito Santo testimonia di Cristo, diversamente la parola di Dio, per noi non ha alcun valore. Questi sono solo alcuni risultati dell'opera dello Spirito Santo. Esso convince gli uomini di peccato. Rigenera l'uomo, viene ad abitare nel credente e lo introduce nella Chiesa. produce i frutti nella vita del credente. Conduce chi ha posto fede in Cristo, fa comprendere la parola di Dio, viene in aiuto alla debolezza del credente, gli dà la capacità di amare e testimonia di Cristo. Compresa l'opera della persona dello Spirito Santo, ad ogni creatura umana non resta che sottomettersi ad essa. Perché, se rimane incredula, non gli resta che la condanna eterna. Se è credente, è in possesso dell'unico modo per glorificare il Dio Trino. Ottobre 2006. Ennero.